stanca ondeggia nel tuo tè. Ricamo di luce nel buio, distesa accanto a te. Io vivo dentro quei tuoi sogni di carta e d'inchiostro. Angeli e demoni, streghe poi straccioni e re. Dimmi da quale globo ora parli ancora a me. Rima il silenzio col suono dentro il pensiero di un uomo. Willy, chi sei? Il moro, l'ebreo. Ti ascolto da qui, hai sogni per me. Ogni tua creatura è un pezzo di te. Creatura